Siete all'ascolto di Easy Rider. Scusate, intanto è partito l'altro pezzo. D'altronde è quello che capita quando il linguaggio espressivo è quello dell'hardcore. Siamo tornati in Svezia negli anni 90, Stronger Than Ever era il titolo di questo EP per i Raised Fist, una band tutto sommato misconosciuta per quanto in Italia si sia mostrata sui palchi in pochissime occasioni. Non sono neanche riuscito a vederli dal vivo, io che di solito i gruppi che apprezzo, insomma, cerco sempre di seguirli il più possibile. Sto trascurando molto i vostri messaggi perché ho un piccolo problema logistico, anche se saluto Junior73, saluto ovviamente Fregenhaus che dice nessun commento su Concerto Grosso, parla da sé. Poi insomma, diversi amici, ma accennavo a un problema logistico, mi arrivano mischiati i vostri messaggi SMS. Per me è un vero e proprio dramma nel momento in cui io, dal punto di vista tecnologico, insomma, sono abbastanza una scarpa, per cui mi diventa difficile. Un altro amico mi scrive alla mail mox@radiorockfm.com, ossia David, felice di aver ascoltato i Candlemass sul divano con il piccolo Pietro, suo figlio di 10 mesi, sulle ginocchia. Credo che sia una bella sensazione, insomma, da neopadre. Poi Roberta dice batterista onesto, arrivederci al 31. Bene, grazie, questo è un messaggio che mi fa piacere, significa che alcuni di voi avranno la volontà proprio di materializzarsi sotto gli studi della radio e, insomma, a noi farà assolutamente piacere. Allora, abbiamo ascoltato due momenti di musica radicalmente differenti, prima i New Trolls con la loro poesia e la loro orchestra d'archi e poi l'hardcore dei Raised Fist. Il prossimo pezzo è un po' una via di mezzo, nel senso che appartiene al repertorio dei Damned, però è un disco dell'85 che rappresenta un po' una chiave di svolta anche per il loro repertorio, perché è più raffinato. Subentrano tastiere e sassofono. Street of Dreams è la traccia di apertura di questo bellissimo disco che si intitola Phantasmagoria, Damned. of Dreams, traducibile in maniera molto chiara come le strade dei sogni. E insomma, in questo periodo avere delle strade che ci portino a sognare è sempre qualcosa di buon auspicio, se non altro, no? Di buona speranza, e non dobbiamo mai smettere di percorrere queste strade, tanto per essere un po' magari patetici e dire qualcosa di banale, però mi piace sempre prendere spunto dai titoli, non voglio dire dai testi nella loro interezza, ma quantomeno dai titoli delle canzoni che trasmetto, al di là della vibrazione sonora che già di per sé ha un grosso valore, ma anche le parole sono belle da sfruttare per esprimere pensieri. Attraverso il microfono di una radio, poi questa cosa, e a quest'ora soprattutto, assume ulteriore efficacia, ulteriore valore, quindi è bello poter sfruttare questa cosa. Quindi Street of Dreams, Damned, 1985, e rimarrei negli anni 80 facendo un salto nella città di Firenze con una delle band italiane che ha avuto una breve carriera e soprattutto di nicchia, anche di culto. Un personaggio a capo di questa band, di questo quintetto, si chiamava I Refuse It, quindi io rifiuto, con il punto esclamativo davanti. Il capitano di questa band, per usare un giro di parole, era il famoso generale, quello che poi negli anni successivi prende il nome di Il Generale, si dedica ad altri generi musicali, ispirato forse dal reggae dei Bad Brains, e diventa uno dei portabandiera del Ai Noi Ragamuffin italiano. Quindi dalla città di Firenze ripeschiamo gli I Refuse It con la loro opera Omnia, che è stata ripubblicata su CD recentemente, si parla di un paio di anni fa. Cronache del Videotopo è il titolo della raccolta, ripeto, che comprende quasi tutto il materiale, tutta la discografia esigua di questa band fiorentina. Io rispolverò un pezzo particolarmente pregno di intensità, particolarmente darcheggiante, ma anche molto molto rock, quindi scorrerà il sangue all'ascolto di questa Paradiso Zero, che è tratta da Mind the Gap, che è ufficialmente l'ultimo album, l'ultimo mini album che gli I Refuse It ci hanno regalato nel lontano 1986. Bye. Stefano Bettini, alias il generale, alla voce, conduceva questa meravigliosa band fiorentina, una sorta di eredità nel termine diciamo della sperimentazione, del osare, degli Area. E so bene quello che dico, potrebbe far inorridire i puristi. Chiaro che si parla di un'estrazione tecnica radicalmente differente, però diciamo che nell'intenzione c'era un'ispirazione. È chiaro che gli Refused appartenevano ad un circuito che era quello punk, era quello hardcore, quindi niente a che vedere con la grande classe, la grande tecnica esecutiva dei maestri Area, però in loro si intravedeva questo desiderio di sperimentazione anche dal punto di vista vocale. Allora, i brani che vi ho fatto ascoltare erano Paradiso Zero, in realtà è un brano solo che era suddiviso in due parti. Il prossimo disco invece si intitola, la prossima canzone si intitola Mr. Grey. Io voglio salutare gli amici che mi stanno scrivendo come PH, chiedendomi lumi ancora sulla serata di domani ricordiamo Rock FM All Stars Band in piazza nell'ambito del Telefilm Festival, quindi dal vivo sul palco del Telefilm Festival in piazzetta Liberty a Milano, che è esattamente in centro tra San Babila e Duomo, una traversa di Corso Vittorio Emanuele sulla destra andando verso il Duomo. Saluti a Rain Dog, insomma siete veramente tantissimi anche stasera, ma gli sms arrivano sparsi. Vi faccio sentire gli Stone Circus dal lontano 1969. Suono tipicamente inglese, ma soprattutto tipicamente 1969, quindi con tutte le caratteristiche del caso. Stone Circus, il nome di questa band misconosciuta, fortunatamente ristampata in supporto CD e anche qualche copia in vinile. Un album omonimo, un quintetto che non compare praticamente da nessuna parte, ma che è bello ritrovare, bello rispolverare, proprio perché anche loro in un immenso panorama inglese avevano qualcosa da dire. Io sto aspettando di cedere la console all'illustre collega Maurizio Faulisi. Volevo specificare che la canzone appena passata me la voglio autodedicare, Mr. Grey, in virtù del colore dei miei capelli, visto che oggi ho avuto occasione di rivedermi in quel ruolo televisivo e ho notato quanto io sia ormai, grazie all'età, diventato tragicamente brizzolato. Il prossimo pezzo ci riporta in Scandinavia, il gruppo si chiama Mana Mana, ovviamente il cantante si è suicidato come tradizione dei paesi nordici, loro erano finlandesi, il pezzo che vi metto ha un titolo impronunciabile, ci provo lo stesso, il Mestiskirian Peto, e ha qualcosa a che fare con la bestia. Peto vuol dire bestia in finlandese. È un pezzo di matrice dichiaratamente dark, molto oscuro, ma con una voce straordinaria. Peccato che il ragazzo in questione si sia suicidato, scomparendo prematuramente, credo sui 31-32 anni, ma d'altronde la Finlandia non perdona. Questi sono i Mana Mana. ritrovati in chiusura di questo programma, non certo per inquietarvi ma per rallegrarvi. Questa era il Restischilian Peto, un disco che l'unico album che mano a mano hanno realizzato alla fine degli anni 80, e poi niente, poi la scomparsa del leader. Gli ultimi saluti agli amici che scrivono a mox@radiorockfm.com, come Chris 88 che grazie a Rock FM ha conosciuto Alice Cooper nel lontano 2000. E poi il Bonnie dice: sei una bestia, come puoi dire la Finlandia non perdona? Hai ragione, hai assolutamente ragione, è una frase priva di senso. La Finlandia è un territorio meraviglioso, mi riferivo un po' a questa attitudine ogni tanto vagamente suicida che coglie i più ubriaconi, i più disperati delle zone nordiche, semplicemente per un motivo meteorologico, perché quando hanno 6 mesi di luce e 6 mesi di buio vanno un po' fuori di testa. Però in realtà è un territorio meraviglioso che anzi mi riservo proprio in queste vacanze, le prossime, visto che probabilmente saranno lunghe quest'estate, di andare a visitare. Va bene, basta dire stupidaggini, io vi do appuntamento a domani, attenzione, non in radio, anzi in realtà in radio qualcosa di virtuale ci sarà, ma vi do appuntamento direttamente live sul palco della Piazzetta Liberty insieme alla Rock FM All Stars Band e a un po' di amici, altri amici della radio. Ci sarà anche Caravelli, ci sarà Faulisi che tra poco vi beccate in diretta, ci sarà il Matthews, insomma una grande festa tutti insieme nell'ambito del Telefilm Festival. Quindi appuntamento a domani sera, inizio puntuale alle 21, noi ci risentiamo live per la diretta di Easy Rider lunedì alle 21, e quindi il mio abbraccio circolare vi sta avvolgendo tutti insieme. Ciao a tutti da Mox. Che tutti hanno paura, ecco cosa è successo. Noi non possiamo neanche andare in uno di quegli alberghetti da 2 soldi. Voglio dire, proprio di quelli da 2 soldi, capisci? Credono che si vada a scannarvi o qualcosa. Hanno paura. Sì, ma non hanno paura di voi. Hanno paura di quello che voi rappresentate. Ma guarda, per loro noi siamo solo della gente che ha bisogno di tagliarsi i capelli.